Avvocati di Giovanni Capuano. Primero, la primera familia. Primero, familia. Si José Mourinho toma el teléfono y te dice, Paul, quiero que juegues conmigo en Manchester United, ¿cuál es tu respuesta a José Mourinho? Mi respuesta es, no sé, no sé cuándo. Vemos. Paguen a la Juve. Para el momento soy aquí. Para el momento soy aquí y soy feliz aquí. Faccia di pazzo, di colpo mi incazzo, perché sono grande protico ed anche un filo isterico. Il problema è che mi sono rovinato tra virgolette da solo, perché sono sempre stato, come si dice a Bari, uno sfaticato che non ha mai fatto niente per rendere al massimo, però io sono felice e contento così. Nella vita l'importante è vivere felici, io son così. Mario, non è bello quel che dice Giancarlo, è stato non mi interessa. Comunque, vabbè, può anche interessare. Non mi interessa. Vabbè, hai ragione, okay. Di pensare come vuoi. Tu pensi veramente che tu sia un fuoriclasse? E come io l'hai dimostrato? Io penso di essere un giocatore normalissimo. Io penso di essere un giocatore normalissimo. Non ho mai detto allora, di essere un fuoriclasse. Siete voi che parlate di questo. Se devo essere un fuoriclasse ci vorrà tempo e basta. Siete voi che parlate sempre di fuoriclasse, non fuoriclasse. Vi aspettate sempre 5 gol da Mario. Noi speriamo che maturando... Si può giocare anche male, bene, non c'entra niente. Non so chi ha messo nella stessa copertina Pogba, Cassano e Balotelli. 800 24 00 24, Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, con me Fabrizio Biasi. Buongiorno a tutti. Chi ha messo nella stessa copertina Pogba, Balotelli e Cassano? È una testa di pazzo, evidentemente. Bisogna metterli insieme perché in qualche maniera però si possono anche accomunare, hanno storie comuni, qualcuno ne ha combinata più di qualcun altro, però effettivamente sono tre soggetti interessanti in questo periodo. Sì, uno è sulla bocca di tutti, ci rimarrà. Io non ne posso più di sentire per il momento e storie a chi e cose varie. E credo insomma che ci vorrebbe più chiarezza, ma queste sono storie di mercato. No, invece mi interessa di più, perché forse era questo il motivo, cioè Pogba che esce da un europeo in cui lui stesso si era caricato sulle spalle la responsabilità di essere il re di Francia, il trascinatore, il leader tecnico, tattico, emozionale, ne esce male. E qualcuno finisce che si ricorderà i balletti e qualcos'altro. Secondo me è ingeneroso, Sì, un po' sì, ne esce malconcio, però è anche vero che lui stesso si era autodefinito il protagonista di questo europeo. Quando poi la tua nazionale esce sconfitta in una finale in casa, evidentemente sei anche quello che ne paga le conseguenze più degli altri. Ci ricorderemo i suoi tagli di capelli molto particolari, beato lui che se lo può permettere, e dopodiché ragioneremo sul suo futuro, che è ancora... punto interrogativo. In tanti fanno questo parallelismo, attenzione, Pogba è troppo esposto mediaticamente sui social, rischia di fare magari la fine di Balotelli, ha lo stesso procuratore, questo dovrebbe essere un disvalore, ma guarda, vedere le cifre no. La certezza è che con lo stesso procuratore probabilmente andrà a guadagnare tantissimo come Balotelli, anzi in realtà guadagna già tantissimo come Balotelli. Io credo che però i due non si possano mettere uno di fianco all'altro, perché da una parte abbiamo un professionista che in questo momento non sta facendo nulla per rovinare il futuro, dall'altra parte invece c'è qualcuno che se l'è rovinato il futuro. Poi sarebbe anche interessante il tema di capire come reagiscono questi potenziali campioni alle pressioni psicologiche. Balotelli lo abbiamo visto, cioè abbiamo capito che tutte le volte che gli è stato caricato sulle spalle un progetto non ha retto. Il dubbio su Pogba può venire. Ma sai, tanti si sono fatti venire il dubbio e dicono che probabilmente in questo momento è supervalutato, ipervalutato rispetto a quello che sta dando. Io sono dell'idea che probabilmente non vale tutti i milioni che ci raccontano, perché solo due giocatori valgono quelle cifre, si chiamano Ronaldo e Messi. Dopodiché però non siamo neanche di fronte a un giocatore come gli altri. Questo ragazzo ormai sono tanti anni che sta facendo meraviglie. Se la Juventus vince tanto, lo deve anche a questo ragazzo che è arrivato a Torino a costo zero e adesso vale un centone, e quindi di sicuro non è come un ragazzo come tutti gli altri, né un giocatore come tutti gli altri. Nell'estate delle teste di pazzo, io mi rifiuto di pensare che la carriera di Balotelli sia finita. Anche se i segnali ci sono. No, non è finita, però sicuramente ha preso una strada diversa da quella che ci si poteva immaginare. Cioè siamo nell'estate del Mario che non ha pretendenti, o quantomeno non li ha più allo stesso livello. Nessuno si fida più di questo ragazzo, prima ancora che di questo giocatore. E di conseguenza è lui stesso che dovrà fare un passo indietro anche a livello di ingaggio, perché con quell'ingaggio diventa veramente difficile potergli dare una possibilità. Sì, però Balotelli ad agosto fa 26 anni e io credo che ci sia qualcosa ancora in Italia che possa aiutarlo a rilanciare la carriera, che poi è la parabola che ha fatto, facendo anche una scelta di umiltà a un certo punto, più o meno alla stessa età Cassano, l'altra testa di pazzo che abbiamo trovato nella nostra copertina. Sì, un'altra storia ancora diversa secondo me, perché veramente non si possono mettere a parallelo. Cassano ha fatto anche il giro del mondo, è tornato e poi si è guadagnato comunque sia una sorta di rispetto, perché in Italia qualcosa di buono l'ha anche fatta. In realtà invece Balotelli arriva da anni di esclusive delusioni, e io credo che siano tutte sua responsabilità. Cioè c'è stata un'involuzione nel gioco di Balotelli clamorosa. Io me lo ricordo a 18 anni giocare a San Siro e lì veramente era un potenziale fenomeno. Negli ultimi due anni io non mi ricordo una partita all'altezza, e questa cosa è clamorosa. A livello fisico mi sembra peggiorato, a livello tattico è rimasto quello di 18 anni, anzi è peggiorato anche in quel caso. Il tempo, io credo però che il tempo per restituirgli una carriera, una seconda metà di carriera dignitosa, almeno. Sì, ma chi se la prende questa responsabilità? Si potrebbe sedersi tutti a un tavolo e fare una task force per capire cosa farne. Giovanni, lì ci deve pensare il buon Minone. Mino deve guardarsi attorno e cercare qualcuno che gli possa fare questo favore, che poi magari è una scommessa vincente, perché porti a casa Balotelli a determinate condizioni, il ragazzo si sveglia e ti svolta la stagione. Però è anche vero che è veramente rischioso, perché tu non porti nella tua casa solo un giocatore che spesso ha creato dei problemi, ma poi devi metterlo in relazione ai componenti della rosa, e magari c'è qualche compagno di squadra che non è così contento di averlo vicino. Però visto che siamo a metà luglio e siamo nella giornata del pazzo, noi lanciamo un appello: qualcuno salvi il soldato Mario. Giusto. Perché a 26 anni non si può pensare che la sua carriera finisca qui. C'è il traffico, poi torniamo e proviamo a raccontare qualche storia, magari qualcuno anche potrebbe essere interessato a prenderlo il pazzo, l'ha detto per scherzo, non lo so io. Traffico. Sì. Amare è un bravo ragazzo, come io quando avevo 20 anni, faccio una buona, una poco buona, bisogna prenderlo così com'è. Tutti convocati. Convocati. Beh, ma salvare il Pescara è il nostro obiettivo minimo, perché meno di quello non c'è, cioè devi salvare, non è che puoi sperare di retrocedere bene. Cioè, io credo che anche l'anno scorso in Serie B la nostra era una squadra che qualitativamente era superiore a qualche squadra di Serie A. In Serie A conta tantissimo la testa, la fisicità e tanti altri, l'esperienza, quindi non basta solo quello, bisogna crescere sotto il punto di vista di questi aspetti che fanno sì che tu possa confrontarti alla grande con le squadre di Serie A. L'inno del Pescara diventa ufficialmente il nostro inno preferito. Sono qui con Fabrizio Biasin di Libero. Saluto il presidente Daniele Sebastiani. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Bellissimo, buongiorno, presidente. Bellissimo l'inno, bellissimo. Stiamo analizzando questa estate di teste pazze. Lei se lo prenderebbe Balotelli, visto che prima del traffico abbiamo chiuso con Balotelli? Ma io penso che Balotelli, al di là delle teste pazze, sia un talento, veramente un talento naturale. Purtroppo dipende da lui capire che deve fare magari quello che sa fare in campo, perché è un giocatore straordinario. Quindi stiamo parlando di una delle poche realtà vere che ci sono in Italia tra i giocatori di un certo livello. È come dire parlare di Cassano per Magari un giro in provincia gli farebbe bene. Lui in fondo non l'ha mai fatta la provincia. Ma io non lo so se gli farebbe bene, ma tanto secondo me dipende solo da lui, perché se lui capisce che vuole dimostrare quello che vale realmente, la Balotelli io penso sia uno dei fenomeni che abbiamo in Italia nel calcio. Quindi, presidente, meglio Balotelli o meglio la Padula? Ma sono due profili diversi, cioè la Balotelli, non scherziamo, se vuole fare il calciatore. Glielo stava chiedendo per i tifosi del Milan, che certo, hanno avuto Balotelli l'anno scorso e avranno la Padula al prossimo. Ma vedete, la Padula concentrato da calciatore magari riesce a essere meglio di Balotelli, che non è concentrato su quello che deve fare, ma se Balotelli torna a fare Balotelli non ce n'è per nessuno. Ma la Padula è pronto per il Milan, sì, ma anche per fare il titolare, perché a oggi in questo mercato un po' in stallo del Milan c'è quasi l'ipotesi al momento che parta titolare. Al momento sicuramente titolare. Ma io penso che la Padula possa fare il titolare in una squadra come il Milan, che oggi secondo me sta ripartendo, sta rimettendo, ributtando le basi per ripartire con una squadra, con un progetto, perlomeno in questo momento, di italiani, di giocatori più giovani. Poi è chiaro che se dovesse cambiare, come ci sente parlare, la proprietà, e magari dovessero salire gli obiettivi o diventare più importanti, sicuramente il Milan magari prenderebbe qualche giocatore che sulla carta o come nome magari possono essere superiori, però poi è sempre il campo che dà il responso. Io penso che la Padula se la possa giocare tranquillamente senza problemi. E poi Pescara è abituata a mandare in giro giocatori che fanno una certa carriera, sì, da Verratti in giù, insomma. I precedenti ci sono. Io ho letto una cosa che mi ha davvero incuriosita, cioè che il Pescara è una società tutta made in Pescara, dal presidente all'allenatore, passando per il direttore sportivo, che credo sia quasi una cosa unica oggi nel panorama della Serie A. Sì, sì, io amo dire che il Pescara è una squadra di artigiani. Adesso dobbiamo sistemarla ancora meglio e diventare artigiani organizzati. Però sicuramente è un club che piano piano, da 4 anni a questa parte, ha risolto tutta una serie di problemi, ha cercato di investire sulle infrastrutture, ha creato un convitto per i giovani che arrivano da fuori Pescara e anche quelli che sono qui, diciamo, in Abruzzo, che farebbero fatica a raggiungere le strutture degli allenamenti di altissimo livello. Penso che in Italia ce ne siano veramente pochi come quello del Pescara. Sta chiudendo per l'acquisto del centro sportivo, che diventerà del Pescara e quindi che già utilizziamo da anni, ma diventerà di proprietà del Pescara, sul quale faremo degli ulteriori investimenti, e soprattutto ha un settore giovanile che ogni anno tira fuori dei ragazzi interessanti, che prima di tutto devono essere per il Pescara. Poi, se dovessero arrivare i grandi club, d'altronde il lavoro del Pescara non può essere che questo. Presidente, in quest'ottica la spaventano un po' i costi della Serie A? Ma noi dobbiamo sapere che noi dobbiamo guardare i nostri bilanci, i costi della Serie A, poi dipende sempre da come affrontiamo questo. Vedete, io penso che in Serie A ci sono costi talmente alti e proibitivi, perché a mio avviso con molta facilità negli anni passati si sono stipulati contratti che secondo me non hanno senso, perché qui ci sono giocatori, tanti giocatori che sono ostaggi dei propri contratti. Evidentemente questa cosa qua va ripensata, va rivista, perché è chiaro e evidente che se c'è un giocatore che ha già fatto la Serie A, che ha già dimostrato, possono essere anche contratti sostenibili, ma è evidente ugualmente che se sono giovani che arrivano solo perché arrivano da primavere importanti, solo perché arrivano da squadre importanti, non è detto che debbano avere contratti così alti che poi diventano un problema per la squadra di club che li ha firmati, diventano un problema per il mercato, perché è chiaro che con questi soldi poche squadre possono permettersi il lusso. Finisce che ve li dovete tenere. No, finisce che le squadre se le devono tenere, o finisce che magari ogni anno su un contratto di 600 ce ne metti 400 perché l'altro è disponibile a pagartene solo due. Non si può arrivare solo perché magari hai fatto 10 gol in primavera ad avere magari un contratto di 5 anni da 600-700 mila euro. Quindi Manai non prende un contratto da 600-700 mila euro a proposito di gol in prima nera. Manai devo dire che evidentemente l'Inter questo discorso l'ha cominciato a fare, perché Manai non aveva un contratto così alto e quindi è stato sostenibile sia per noi che per l'Inter. E evidentemente qualche società magari di necessità sta facendo virtù e ha cominciato a riguardare questo aspetto. Io vi posso assicurare che ci sono tanti ragazzi che erano grandissime promesse, non faccio il nome perché l'abbiamo avuto qua già per due anni, che secondo me non hanno nulla a che fare con la Serie B, che però magari si siedono mentalmente su un contratto di 500-600 mila euro perché hanno a momenti quasi una pensione, no? Cioè, e magari ci sono dei ragazzi che hanno bisogno invece di essere stimolati, e lo stimolo più grosso è quello di guardare sempre un obiettivo. A questo punto gli obiettivi ce l'hanno già in tasca, quindi fa fatica. Presidente Oddo, l'ha ringraziata pubblicamente perché lei ha confermato, diciamo, tutta l'ossatura della squadra che è arrivata in Serie A. Adesso gli farà qualche regalino o va bene così? Oddo mi farà qualche regalino? No, lei è viceversa. Perché abbiamo letto che gli prenderà Duda, Matri, Balotelli e Cassano. È bella squadra. Faremo uno squadrone. No, diciamo che noi abbiamo le idee molto chiare. D'altronde la squadra la stiamo facendo insieme. Quando si parlava prima di Pescara-Città, no? Lavoriamo a stretto contatto tutti i giorni con il mister, con i due direttori, quindi lui sa in prima persona e in tempo reale quelli che sono gli obiettivi e li condividiamo. È chiaro che se dovesse capitare la ciliegina, che come dicevo prima magari oggi non è alla portata del Pescara, ma fra un mese lo diventerà, perché come perché da qualche parte si deve piazzare. Da qualche parte si deve piazzare e tu hai sicuramente un vantaggio che è la categoria. L'altro anno noi abbiamo fatto la B, in Serie B l'altro anno sono scesi negli ultimi giorni di mercato tanti giocatori che erano in A e non sarebbero mai venuti in B solo perché erano rimasti al palo. È chiaro che se tu non ti ingolfi oggi e hai dei posti liberi o comunque hai la possibilità di mettere altre pedine da Ferragosto in poi il mercato offre anche dei last minute che possono essere interessanti. Abbiamo ancora un minutino di chiacchierata con il presidente Sebastiani. A me incuriosisce molto anche Cristante. Che giocatore vi aspettate di aver riportato in Italia? Noi ci aspettiamo di aver riportato in Italia un giocatore intanto che tecnicamente è molto bravo, penso che abbia dei piedi assolutamente all'altezza della situazione, e poi sicuramente ci aspettiamo di aver riportato in Italia un ragazzo che magari è stato, come dicevo prima, forse osannato troppo, è 95 Cristante, quindi stiamo parlando di appena 21 anni, e che a mio avviso ha dentro tutta la voglia e tutta la possibilità di riscattarsi e far vedere qual è il suo vero valore, e quindi penso che possa fare molto bene, perché Oddo l'ha voluto, è stato uno dei primi che aveva richiesto, e quindi penso che farà di tutto per dimostrare anche lui come allenatore che è un giocatore che ci può stare in Serie A e magari può anche tornare poi a proporsi per altri livelli, magari anche per l'azzurro. Certo. C'è la borsa, grazie presidente. Grazie a voi. Grazie, in bocca al lupo per la stagione. E la borsa, torniamo subito. Sarà un lavoro di campo costante, fatto tutti i giorni. Vedremo dove potremmo arrivare, però io credo che sono convinto che possiamo fare un ottimo campionato. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta tutti convocati. Undici campioni, Crotone un sogno in più, la curva si innamora del cuore rosso. Crotone, che è una delle belle favole di questa stagione, quello che abbiamo sentito era l'inno del Crotone. Prima parlavamo del Pescara, l'altra che atterra sul pianeta della Serie A. Quella del Crotone è una favola ancora più bella, forse. Intanto saluto Raffaele Vrenna, presidente del Crotone. Presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Grande favola nella stagione dell'Leicester, del Portogallo, che vince il campionato d'Europa, anche se il Portogallo, l'abbiamo detto in tutti i modi, era comunque una grande squadra. Vi siete un po' abituati al clima della Serie A, sì? Ma ci dobbiamo abituare per forza al clima della Serie A, perché ormai ci siamo e dobbiamo confrontarci con il calcio che conta, e quindi si è entrato subito nel vivo e si è iniziato subito già dal ritiro, e siamo sul mercato proprio per cercare di potenziare questa squadra e cercare di avere un altro sogno, è quello di rimanere in Serie A. E che effetto le hanno fatto queste prime settimane nel mondo dei grandi? Parliamo di mercato in questo momento, però il mercato è un mercato difficile, anche un mercato fermo, anche le grosse squadre non è che si stiano tantissimo muovendo. Noi siamo lì e stiamo cercando ragazzi che ci possono dare una mano insieme al gruppo storico che ha vinto questo campionato di Serie B. Prima, presidente, chiedevo al suo collega, definiamolo così, di Pescara, come cosa vuol dire fare mercato in Serie A rispetto alla Serie B, cioè cambiano i costi. Chiedo a lei quali sono i rapporti tra Serie B e Serie A in questo senso, cioè la moltiplicazione dei costi e su che ordine di cifre arriviamo? Ma sicuramente la Serie A ha dei costi superiori derivati dal fatto che queste grandi squadre hanno giocatori che hanno stipendi enormi. Noi avremo il modello Crotone e cercheremo di trovare ragazzi che hanno voglia di fare bene, scoprire magari altri campioni come abbiamo fatto negli anni passati. Ma lei cosa si immagina per il Crotone? Un modello più vicino al Sassuolo, che ha anche disponibilità di un certo tipo, o magari al Chievo, o magari una via di mezzo? Ma diciamo che il modello Crotone deve rimanere modello Crotone, non né per il Sassuolo né per il Chievo, dove sono realtà economiche diverse. Noi avremo il nostro modello, che è quello che facciamo da tanti anni. La cosa bella è che agli europei c'erano 5 crotonesi nella rosa dell'Italia agli europei. Presidente, quanti abbonati si aspetta l'anno prossimo? Ma mi aspetto almeno 16.000 abbonati. Non pochi, devo dire. Anche perché il Crotone non rappresenta Crotone, rappresenta la Calabria, e la Calabria sono 2 milioni di abitanti, e i calabresi hanno una voglia matta, perché il calcio che conta manca ormai da circa 9 anni. L'ultima squadra era la Regina, quindi noi oggi rappresentiamo sì Crotone e provincia, ma rappresentiamo la Calabria, sì, in Calabria, che i tanti calabresi che sono nel mondo, che sono circa 4 milioni. E a questi 16.000 futuri abbonati cosa può promettere? Cioè, ci sarà un bel colpo di mercato nei prossimi giorni, nelle prossime settimane? Ma quello che posso promettere è cercare di farli divertire durante le partite, cercando di fare un gioco spumeggiante come ha fatto sempre il Crotone, e cercare anche, il sogno è quello dell'ammazza grandi. e questo potrebbe essere una grande soddisfazione da dare ai tifosi. Ma Balotelli le interessa veramente o no? È un'ora che sta cercando di piazzare Balotelli ovunque, eh? No, Balotelli è stato sicuramente una battuta nel fatto che Crotone ha recuperato tanti calciatori che magari non andavano bene negli anni passati, magari giocando male, e poi sono stati recuperati tantissimi. E quindi Crotone poteva essere sicuramente, per un giocatore che è un patrimonio del calcio italiano nel mondo, un recupero, e Crotone era la piazza giusta, perché anche la città merita sicuramente questo, perché i cittadini sia crotonesi che calabresi sono solari, sono accoglienti, quindi alla fine sicuramente i ragazzi vengono magari con un po' di magari che magari non, so, ma non, so, non sono convintissimi di venire a Crotone, però se ne vanno anche piangendo da Crotone, quindi alla fine la forza non è solo la società ma è anche la città, i calabresi. Sì, lei prima ha citato l'europeo, beh, da Crotone sono passati Florenzi, Bernardeschi, giusto per fare due nomi, e hanno usato Crotone come trampolino. A me è venuto in mente un altro nome, allora se vogliamo suggerirlo, di giocatore da completare, da rilanciare, perché non vi prendete Cassano? Sarebbe perfetto in una piazza entusiasta e passionale Cassano come Crotone. Ma Cassano è un altro patrimonio del calcio italiano e mondiale. Però il modello Crotone punta sui giovani, quindi un altro calciatore che farà sicuramente bene è Ricci, che è stato qui 2 anni a Crotone, già ha fatto bene l'altro giorno facendo 2 gol strepitosi, e continueremo a cercare di portare avanti questo esempio. Noi abbiamo giocatori importanti in questa squadra come Serrati, Martella, Capezzi, e cercheremo di portarli ad arrivare nel calcio ancora più importante, che potrebbe essere la nazionale o a squadre ancora più importanti. Lei comunque fa parte di quella linea di pensiero per cui in Serie A si va cercando di mantenere la spina dorsale della Serie B, anche se magari sono giocatori che la Serie A non l'hanno mai vista. C'è anche chi arriva in Serie A e poi cambia tutto. È vero, la Serie A è difficile perché c'è un altro passo, c'è un altro pensiero, un pensiero immediato, quindi sono giocatori che sicuramente fanno la differenza per gamba e per pensiero, quindi su questo punteremo sui ragazzi che hanno vinto questo campionato, cercando di inserire ragazzi che hanno la possibilità di dare una grossa mano per rimanere in questa categoria. Il primo anno è l'anno più difficile. Presidente, secondo lei Lotito è contento della vostra promozione? Sa che l'anno scorso non è rimasto molto contento delle promosse dalla Serie B. Ma penso di sì, tra l'altro conosco bene Claudio, come conosco bene tanti altri, perché ormai sono 24 anli che sono nel calcio, quindi conosco un po' tutti. È normale che il Crotone è una piazza piccola e potrebbe anche non essere simpatico dal punto di vista delle grosse società, però poi alla fine è giusto che chi merita va avanti. Potrebbe essere il Crotone, come potrebbe essere il Chievo o il Sassuolo o altre squadre che magari hanno un bacino d'utenza più piccolo. Ma lei, c'è una data, anche se non c'è ancora il calendario, c'è una data che si è segnata mentalmente come il giorno in cui avrà la massima soddisfazione di dire: ecco, ho portato il Crotone in Serie A, che ne so, arriva lo sci dalla Juve, c'è una domenica che si immagina? Ma ci sono tantissime squadre. Noi quest'anno completeremo un attimo, noi non abbiamo incontrato Roma, Lazio mai, non abbiamo incontrato Inter, non abbiamo incontrato magari l'Udinese. Perché invece la Juve in B l'avete vista? In B l'abbiamo vista. Com'era finita? Quindi... ci aiuti, perché ci manca la memoria storica. Ma è finita con 2 sconfitte, è finita anche con uno stadio che era pienissimo, settembre 2006, dove non si tifava Crotone ma si tifava Juve, 10.000 persone che tifavano Juve, quindi sono rimasto anche un po' male. Avete giocato in trasferta praticamente. Sì, in trasferta. Quindi questa volta deve andare diversamente al di là del risultato. Ma andrà diversamente perché abbiamo la stessa categoria, quindi non c'è più il problema della sorpresa sotto questo aspetto. L'ho visto in Coppa Italia a Milano, dove abbiamo fatto una bella figura, c'erano circa 8.000 tifosi del Crotone che hanno tifato Crotone dal primo minuto all'ultimo, quindi la preoccupazione prima della partita era quella di rivedere un attimo la Juve, invece poi alla fine ho capito che c'è anche il pubblico da Serie A. Ultima curiosità su perché avete scelto Nicola. Abbiamo scelto Nicola perché innanzitutto è un maestro del calcio e poi mi ha convinto perché ha tanta voglia di fare bene, ha tanta rabbia, ha tanta voglia di fare, quindi alla fine è anche l'allenatore che potrebbe continuare quello che è stato il modulo di gioco dell'anno scorso. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Grazie. Arrivederci, arrivederci. Grazie a Raffaele Vrenna, presidente del Crotone. Ci fermiamo, c'è il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Quando si ha la fortuna di rappresentare gli arbitri italiani è un grandissimo orgoglio, allo stesso tempo una grandissima responsabilità, perché si punta sempre tanto su gli arbitri italiani, e la dimostrazione che siamo andati a fare, credo, la partita più importante di questo europeo, perché è vero che era la semifinale, ma è altrettanto vero che erano due nazioni estremamente importanti sia come storia che come cultura, quindi una grandissima partita e proprio per questo orgoglioso al 100%. Quindi non c'è neanche un po' di delusione per questa mancata finale? Uno onestamente punta sempre al massimo e il massimo non si può dire che non fosse quella partita. Gli arbitri italiani hanno dimostrato di essere tra i più forti in Europa, quindi questo era l'obiettivo che ci eravamo prefissati prima di partire e che abbiamo raggiunto con delle ottime prestazioni, direi. Secondo te doveva fare la finale Rizzoli o ha ragione a dire però Francia-Germania è la partita più importante dell'europeo, la vera finale? Sì, era sicuramente la partita più importante, però intimamente secondo me avrebbe preferito la finale. Devo dire che lui ha già un bel curriculum quanto a finali, per cui si può anche accontentare in questo caso. Sì, si può accontentare anche se non sarà il secondo uomo a fare la tripletta e questo probabilmente resterà una piccolissima ombra nella sua carriera. Saluto Luca Marelli a proposito di arbitri. Ciao Luca. Ciao, buongiorno a tutti. Secondo te meritava la finale? Ma guarda, allora, la finale la meritava, però era abbastanza scritto che non l'avrebbe diretta. Poi lo capisco quando afferma che aveva diretto la partita, insomma, non è la finale. La finale è stata Francia-Portogallo e l'ha arbitrata Klattenburg. La realtà è che gli arbitri, te lo dico per esperienza personale, anche sui piccoli tornei, se dovesse esserci una semifinale Milan-Juventus, l'arbitro preferisce sempre fare la finale Milan-Carpi. Perché la finale è la finale. Perché la finale è la finale, c'è poco da fare. E la finale rimarrà negli annali. Noi cosa viviamo a fare poi alla fine? Per lasciare un segno di noi stessi, oltre a essere comunque soddisfatti di quello che facciamo, Chi si ricorderà fra 5 anni che Rizzoli ha arbitrato la semifinale? Sì, noi italiani, noi arbitri. Ma se ti chiedessi nel 2012 chi ha arbitrato la semifinale, me lo sai dire? No, ovviamente. Assolutamente no, perché poi noi andiamo a vedere il tabellino della finale, ci interessa solo quello. Esatto, esatto. Ma tu che voto dai all'europeo di Rizzoli? 8 pieno. 8 pieno. È stato molto bravo, sì. È stato molto molto bravo. Devo dire che Rizzoli a livello internazionale è un altro arbitro. Non so il motivo esatto per cui si trasformi così tanto, però a livello internazionale è sempre un arbitro impeccabile. A livello nazionale è ormai qualche anno che ha passaggi a vuoto e anche spesso. Questo non riesco a capirlo, probabilmente è una questione di motivazioni, perché sai, ormai ha arbitrato tutto, veramente tutto. Gli mancava proprio la finale europea, ma era difficile che la potesse ottenere. Non lo so, io spero che questo ottimo europeo sia di strone per fare un po' meglio in campionato, perché obiettivamente... Sì, non veniva da una stagione straordinaria. No. C'è stato il culmine poi nell'infortunio prima di Juventus-Napoli, non ha potuto fare la partita a scudetto, esatto. Però in generale tutto l'anno c'è stata l'impressione che il vero arbitro top per la Serie A fosse un altro, fosse Orsato. Orsato e Rocchi sono stati decisamente migliori quest'anno rispetto a Rizzoli, su questo non c'è alcun dubbio, però a livello europeo ci sono comunque delle gerarchie. Rizzoli è il numero uno italiano da parecchi anni, vedremo adesso i prossimi mondiali. Io mi auguro che non si dia seguito a questa brutta abitudine delle deroghe. Rizzoli è un ultimo anno, a 45 anni dovrebbe smettere a dicembre con il ruolo internazionale e a giugno anche come arbitro. Non è che per cattiveria, ma semplicemente perché è giusto il ricambio. Arrivare a 45 anni secondo me è già un buon traguardo, soprattutto dopo 15 anni, dopo 15 stagioni in Serie A e B. Io spero che per il Mondiale 2018 si possa portare avanti un progetto nuovo che è Orsato, progetto, che comunque il Mondiale è un risultato, non è un progetto, però spero che si possa arrivare al Mondiale del 2018 con nuovi rappresentanti. Chissà, magari, visto che ci sono stati due europei, due inglesi e europei, anche due italiani ai mondiali, non penso che sia così una chimera. È già successo in passato. Ma Luca, la cantera italiana sta producendo qualcosa di nuovo? Qualche arbitro che non conosciamo, che verrà possiamo su? Permetterci di pensionarlo, Rizzoli? Ma guarda, allora, per pensionare Rizzoli bisogna però andare per gradi, bisogna pensare soprattutto a formare gli arbitri nuovi. È chiaro che se, come è successo nell'ultima stagione, tutti i big match vengono arbitrati sempre dagli stessi arbitri, la cantera può essere buona quanto volete, ma non cresce mai. Vi faccio un esempio: se noi chiediamo a una persona per strada chi sono gli arbitri italiani, i 20 arbitri italiani, i 22, 21 arbitri italiani della Canà, chi sono? Rispondono dunque: sono Rizzoli, Orsato, Rocchi, Mazzoleni, Banti, e lì si fermano, perché sono sempre gli stessi che si sentono. In realtà i giovani ci sono, noi abbiamo talenti veri come Di Bello. Di Bello è un arbitro di grande livello, però va valorizzato, invece viene sempre utilizzato per gare di terza fascia. In questa maniera, quando dovessero uscire, anzi quando usciranno i vari Rizzoli, i vari Rocchi, Bagliavento, tutti questi arbitri di grande esperienza, a chi c'è sempre il rischio che ci sia un salto generazionale. È un salto generazionale, perché non si stanno formando questi arbitri, perché vengono sempre relegati a partite di terza fascia. Io do un bel 7 invece complessivamente agli arbitri dell'europeo, e non era scontato, perché noi abbiamo assistito soprattutto a una parte finale della stagione internazionale, delle coppe, con delle direzioni che obiettivamente non hanno soddisfatto. Ma voi due, sia Giovanni che Fabrizio, mi conoscete bene e sapete benissimo che purtroppo sì. Io sono una di quelle persone che non ha problemi ad ammettere di aver commesso degli errori o di essersi lanciati in valutazione sbagliata. L'avevo detto, avevo pensato che il mondiale, l'europeo, sarebbe stato arbitrato male, proprio perché avevo visto delle direzioni indecenti nelle coppe europee. Per esempio la finale di Europa League è stata una roba obiettivamente inqualificabile. Devo dire che invece mi sono sbagliato, perché in questi europei abbiamo visto mediamente delle ottime direzioni, abbiamo avuto dei passaggi a vuoto molto importanti, quelle di Eriksson, che non so come, per quale motivo si è arrivato addirittura a vincere una semifinale dopo due partite arbitrate in maniera pessima. Abbiamo avuto il passaggio a vuoto di Shakir in Italia-Spagna, obiettivo, completamente perso la partita di mano. Una finale non arbitrata benissimo, perché Klattenburg non ha arbitrato bene. Klattenburg non ha commesso errori determinanti, e questo è già un bene. Però obiettivamente la finale è stata arbitrata male. Ma tu Payet l'avresti tirato fuori dopo il fallo? L'avresti ammonito? L'avresti... Quello che ha messo fuori Ronaldo? Era l'ammonizione. Cioè, l'errore di Klattenburg è stato quello di concedere tutto per 8 minuti, per i primi 8 minuti. Purtroppo cosa può capitare in questi casi? Che lasciando correre, è vero, il gioco è più veloce, ma non è l'arbitro che deve fluidificare il gioco, l'arbitro deve arbitrare, applicare le regole. Se si lasciano passare 2, 3, 4 contrasti duri senza neanche fischiare, alla fine il rischio è che arrivi un contrasto ulteriormente duro con quello su Ronaldo, che azzoppi un giocatore, al di là del fatto che si chiami Ronaldo. Se poi pensiamo che quel contrasto non è stato neanche sanzionato tecnicamente, evidentemente Clattenburg ha semplicemente sbagliato completamente la lettura. Luca, posso farti una domanda che ti farà arrabbiare? Lo sai che mi fa arrabbiare tutte le tue domande. Bene, mi spieghi a cosa diavolo servono gli addizionali, perché io ancora non l'ho capito. Cioè, no, quelli dietro la porta. Sì. Ma guarda, ti dirò che tu mi hai detto che volevi farmi arrabbiare. Io sono da quando li hanno inseriti che dico, che affermo che non servono assolutamente a nulla. Non servono a niente. Allora, gli errori che vengono commessi dall'arbitro centrale o da quegli addizionali si compensano. Perché davanti ad errori che non vengono commessi grazie all'addizionale, ci sono errori che vengono commessi a causa degli addizionali. È soltanto una duplicazione inutile del ruolo, io ho sempre affermato, oltre al fatto che costano un sacco di soldi, obiettivamente, soprattutto su un bilancio comunque già in difficoltà come può essere quello della Federazione Italiana. Beh, anche la tecnologia sui gol si dice che costi tantissimo, però devo dire... io ero anche tra quelli scettici sull'utilità. In realtà ha finito completamente per svelenire alcune situazioni che hanno avvelenato il calcio italiano anche negli ultimi anni. Sì Giovanni, però c'è una differenza, che la tecnologia sul gol non gol è vero che costa tanto, però è oggettiva. Per quanto riguarda invece gli addizionali, si è aggiunto soltanto una visione soggettiva. Non c'è un'oggettività comunque nella valutazione dell'arbitro addizionale o della collaborazione dell'arbitro addizionale assistente, c'è sempre una soggettività, è sempre una valutazione. Per quanto riguarda la tecnologia gol non gol, invece è oggettivo, la palla è dentro o è fuori. Si è trovato il modo finalmente di risolvere questo problema e lo si è risolto. Gli addizionali sostanzialmente cosa hanno risolto? Più che altro, scusami Luca, da fuori sembra che siano un po' timidi a volte, lo dico da... Non hanno... esageratamente invadenti. Esatto, ma perché? Ma la differenza è questa, cioè intervenire in una semifinale dell'Europea, abbiamo saputo che Rizzoli ha deciso da solo, io francamente continuo ad avere i miei dubbi. Sul mani di Schweinsteiger. Sì, esatto. Se l'ha visto da solo è un fenomeno. Io continuo ad avere i miei dubbi, soprattutto lui perché... ha detto di averlo visto da solo e poi di essersi confrontato. Sì, esatto. E poi dopo nel dubbio ha dato rigore. Va bene, per carità. È stato coraggioso, tanto di cappello. Però attenzione, quale sarebbe il motivo per cui bisogna confrontarsi con un addizionale sul calcio di rigore, sul fallo di mano? Cosa serve? Cioè l'arbitro ha deciso, per 100 anni ha deciso sempre da solo. Ci sono state polemiche, perché le polemiche sono finite adesso. Luca, mi pare che sia finita. Una domanda tecnica, invece cosa pensi dei calzettoni di Rizzoli? Che sono, li hanno cambiati all'ultimo momento, perché si confondevano con il calzettone della Germania. Quindi insomma, questa era una domanda tecnica. Sì, no, era una domanda tecnica. Va bene, grazie Luca Marelli. Grazie a voi. Ciao, ciao Luca, grazie. Abbiamo il GR delle 15, poi torniamo e riprendiamo il nostro viaggio verso Rio. Tutti convocati. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Franco Schipani? Alessandra Fiori? Buongiorno. Tintarella di luna, tintarella color latte. Alessandra Fiori e Franco Schipani ci tengono compagnia per tutto il mese di luglio con Mix 24 Estate, raccontandoci gli anni 60 e 70 attraverso la musica e la storia. Tutte le mattine alle 9:30 su Radio 24. E se c'è la luna piena, tu... convocati. Fabrizio Biasin qui con me, saluto ciao, Giorgio Rondelli. Buongiorno, buon pomeriggio. La grande speranza della nostra atletica in una spedizione che io non so complessivamente cosa potrà regalare al nostro sport, e qui ci affidiamo insomma alle vostre mani. Ma cosa potrà regalare? Certamente il livello tecnico delle Olimpiadi sarà molto diverso da questi campionati, recentissimi campionati europei di Amsterdam, che oltretutto sono di medio termine, quindi non sono con tutte le diciamo tutte le specialità come avverrà fra due anni, non sono anche con molti protagonisti, perché chiaramente qualcuno ha fatto delle scelte diverse per arrivare in condizioni per avere migliori condizioni possibili alle Olimpiadi, quindi troveremo molta più difficoltà. Quante medaglie potremo lottare? Ma sicuramente è un'atletica italiana che ha molti più protagonisti giovani, però sono tutti futuribili. Bisogna vedere se dalle premesse che ci sono adesso, che sono piuttosto buone, poi diventeranno atleti di punta a livello internazionale. C'è la sensazione che nel corso degli anni tutti questi giovani atleti italiani poi piano piano però si perdono, non riescono ad arrivare al top? Più che una sensazione è un dato di fatto, prima di tutto perché bisogna vedere se alcuni che sono talenti e poi lo sono anche a livello di capacità di allenarsi sempre più duramente, di sopportare le pressioni, di essere competitivi nei grandi appuntamenti. Qualcuno dice anche che ormai, essendo il 90% dello sport di atletica italiano militare, lo stipendio sicuro possa fare un po' da camomilla per alcune le ambizioni quando ci sono di fronte alcune difficoltà. E però succede anche nel nuoto, eppure lì i risultati arrivano. Sì, è vero, è vero, perché probabilmente ci sono anche forse degli atleti di punta, come possono essere la Pellegrini, Paltrinieri, Detto, Magnini in tempi passati, e altri che comunque sono delle locomotive, sono degli esempi che trascinano un po' tutto il gruppo. Noi adesso di questo tipo di atleti non ne abbiamo, e poi mi permetto di dire che comunque forse l'atletica è un po' uno sport un po' più universale del nuoto, per cui anche da paesini c'è più concorrenza, non c'è un'Africa devastante nel mezzofondo, nel fondo, ma stanno crescendo anche le poi con le naturalizzazioni, ci sono oramai delle nazionali che non hanno nulla a che vedere con la propria nazione di appartenenza e che stanno invece diventando competitive. Assolutamente sì, in passato Qatar e Bahrain, adesso per un pugno di dollari, forse per qualche pugno di dollari in più, la Turchia è diventata assolutamente protagonista, prende atleti e naturalizzati un po' da tutto il mondo, in particolare dall'Africa. Per quanto riguarda il mezzofondo, neanche atleti poi che possono vincere medaglie, credo che possano vincere medaglie olimpiche. Noi però una medaglia quasi sicura, forse due, la lasciamo a casa. Di chi mi vuoi far parlare? Tiriamo a indovinare. Da uomo di sport, perché è un tema che divide, prende la pancia di tutti, noi ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. A me personalmente è un tema che mette angoscia, perché c'è un senso di difficoltà nel capire esattamente i termini di tutta la questione. Stiamo ovviamente parlando di Alex Vatser. Io credo che a Vatser, ma anche a Sandro Donati, non so poi se è voluta o no, non voglio entrare in particolari polemiche, abbiano tutto l'aspetto spettacolarizzazione del recupero, perché vabbè, allora è chiaro che il personaggio Donati è assolutamente benemerito per quanto riguarda la lotta al doping e così, però fino a qualche a un anno e mezzo fa avrebbero pronunciato sul tribunale dell'inquisizione chiunque si fosse dopato. Adesso, siccome il recupero è stato portato avanti da Donati, dal suo gruppo, allora tutto quello che viene fatto è tutto giusto. Io credo che anche un ruolo negativo l'abbia fatto la federazione, che prima era contraria, poi ha sposato questa operazione e poi adesso fa un po' come Ponzio Pilato, se ne sta in disparte e ha accettato questo secondo verdetto, su cui anch'io tutto sommato mi sento di avere qualche dubbio. Su una schedina metterei 1x2, 1x2 è comodo, è proprio questo, sì, non lo so, mi sembra una, cioè, o ancora una volta Svatter, come aveva aggirato la buona fede di tante persone, e lì lo contesto duramente quando lui dice ho pagato solo io. No, amico, hanno pagato la tua fidanzata, ha pagato l'arma dei carabinieri, ha pagato la marcia italiana, ha pagato l'Atletica Azzurra. Sì, però, è anche vero, Giorgio, che questa è un'altra delle domande che mi gira per la testa in questi giorni. C'è un clima di ostilità intorno ad Alex Watzer che io non ho mai riscontrato verso nessun altro. Non è nemmeno il primo atleta pescato al doping che poi cerca di rientrare. Sì. E invece lui è stato accompagnato sempre da una sorta di muro che ha avuto intorno. Parliamoci chiaro, il perdono non c'è stato. Cioè, perché? No, non c'è stato il perdono, vi spiego perché. Perché sicuramente in molti hanno visto, a torto o a ragione, io non mi sento di dire a torto o a ragione, hanno visto in questa spettacolarizzazione un'operazione di marketing. Perché che uno che venga recuperato, ma che ci si vada a fare il test sotto la Saxa Rubra, che faccia altre cose, ha indispettito tutti. E non è vero che alcuni sono controdonati, perché Tamberi o altri, quando Donati portava avanti le sue battaglie del doping negli anni 80, manco erano nati. Però non può essere una colpa che un atleta sia nettamente più forte degli altri, perché anche questa cosa sembra che abbia dato fastidio. Beh, a parte che è nettamente più forte degli altri è tutto da vedere, perché non è detto che batta Diniz o Tot, perché queste cose che le dicono, ma non le possono dire a gente, anche ad esempio gente come me che la critica la conosce. Chi l'ha detto che batte Diniz sicuramente? Beh, diciamo che nell'unica occasione in cui abbiamo avuto modo di valutarlo è sembrato... Ma questi due qua, come hanno fatto altri agli europei, così non c'erano, hanno fatto una scelta. Cioè, qui parliamo di valori assoluti, perché se allora, e perché c'è muro contro muro? Perché voi vedete che c'è muro contro muro da una parte, ma c'è muro contro muro da un'altra parte, perché appena uno esprime un parere differente, una valutazione, un punto di vista che magari i dopati non devono essere non devono rientrare in nazionale, si muove tutto il gruppo che sta a fianco di Donati. Si è arrivati, come avete detto giustamente voi, a una situazione di tipo calcistico, cioè i fans di una squadra, i fans di Donati, e chi non è fans di Donati la pensa in maniera diversa. Se poi la pensi in maniera strumentale da una parte, strumentale dall'altra, questo io non mi sento e non posso dire. Però è anche vero che siamo alla zero solidarietà, cioè c'è un mondo, quello dell'atletica, che ha abbandonato un suo prodotto. E ripeto, non è il primo Alex Watzer ad aver avuto problemi del doping, non è il primo ad aver avuto magari rientri controversi. No, però vi giro la domanda a voi. Voi vi ricordate un altro iter di recupero di questo tipo? No. Ecco, voglio dire. Allora anche, voglio dire, il grandissimo peccatore Justin Gatlin, chiunque può rientrare, sconta i 3-4 anni, probabilmente è stato testato. Però Giorgio, ricordo anche pochi che magari alla fine abbiano ammesso interamente le proprie responsabilità. Sono altri che sono rientrati continuando a raccontare la favola che in fondo erano mezzi innocenti. Vabbè. No, ognuno... perché il tema divide, il tema divide, è per questo che lo affrontiamo. Come gli dico, io sono dentro molto, e ti posso dire che nel 2012, cioè l'anno delle Olimpiadi, io seguivo la miglior triatleta italiana, Alice Betto, che gareggiava per la DDS. E Alex Watzer viveva settimo milanese, qualche volta ci ho anche pranzato assieme, perché lui era lì con Didoni, con altri allenatori della marcia. Mi avessero detto, preso 10 atleti, chi si dopava, l'unico che avrebbe detto che non si dopava era lui, per dirti. Perché sicuramente ha grandissime qualità. Perché l'abbia fatto, perché non l'abbia fatto, non lo so. Certamente è uno che potrebbe non aver bisogno di doparsi. Però adesso dare, ingigantire i meriti, così in fondo... nel 2008 le ha vinte le Olimpiadi, e quello che l'allenava non mi sembra tanto stupido di allenare le persone, cioè Sandro da Milano, visto che è il tecnico che a livello mondiale ha vinto più cose. Quindi io non, ripeto, non metterei la mano sul fuoco. Quando io ti dico uno di due, posso dire potrebbe aver capito la buona fede anche di tutto lo staff che l'ha seguito, perché non possiamo escluderlo, oppure invece magari possono avere, ci può essere stata anche una trama ordita da chi, non lo so. Sarebbe più facile tutto se ci fosse una verità, anche scomoda, ma una verità. Ringrazio Giorgio Rondelli, grazie. Va bene. Grazie Giorgio, ringrazio anche Fabrizio Biasini che mi lascia. È stato un piacere. Adesso però noi restiamo alle Olimpiadi e restiamo a Rio, a poco meno di 20 giorni dall'inizio dei giochi. We'll be right back. Rio, perché a 3 settimane dal via delle Olimpiadi ci interessa anche scoprire a che punto è la città brasiliana che le ospiterà, che 2 anni fa ha ospitato il mondiale e che oggi, almeno da quello che si legge in Italia e in Europa, viene descritta come molto avanti dal punto di vista dell'impiantistica e molto indietro per tutto quello che è il contesto in cui ci saranno e si vivranno le 2 settimane dei giochi olimpici, poi ci saranno le Paralimpiadi. Saluto e ringrazio Emiliano Guanella. Ciao Emiliano. Ciao, ciao Giovanni e gli spettatori. A che punto è Rio? Hai detto bene te, Giovanni, le infrastrutture sono a un buon punto, nel senso che quello che si poteva fare è stato fatto. Perché dico quello che si poteva fare? Perché i programmi con cui, il progetto con cui Rio ha vinto, ricordiamo nel lontano 2009, l'assunzione di questi giochi olimpici, battendo concorrenti ben più blasonati, come per esempio Chicago, quando era presidente Obama, quindi la città di Obama, insomma, aveva vinto promettendo degli impianti favolosi, promettendo per esempio di pulire la baia di Guanabara, dove ci saranno le gare di vela, dove io sono stato recentemente con il team di vela svizzero e l'allenatore Mitch Bott, un ex grande campione australiano di vela, mi raccontava che in questi 3 anni di allenamenti hanno trovato di tutto in questa baia, hanno trovato frigoriferi, hanno trovato pezzi di legno, fornelli, insomma, perché la baia è sostanzialmente la fogna a cielo aperto di una regione, quella dell'area metropolitana di Rio, dove vivono 9 milioni di persone. Ecco, ma non solo questo, anche per quanto riguarda gli impianti, certi impianti dovranno essere molto più completi di quello che poi saranno, per esempio l'impianto di tennis, dove Roger Federer, fra gli altri, però Roger Federer soprattutto cercherà di conquistare l'unica medaglia, l'unico titolo che manca nella sua straordinaria carriera, cioè l'oro in single, doveva essere coperta interamente, a metà opera hanno capito che non sarebbero arrivati, hanno detto facciamo una cosa moderna, l'hanno coperta per un quarto, quindi questo stadio un po', l'arena del tennis un po' strana con un tetto che copre solo un quarto. Si confida nell'assenza di pioggia. Esattamente, stessa cosa per l'impianto del ciclismo. Quindi insomma gli impianti però ci sono, ecco, non sostanzialmente ci sono. Adesso la metropolitana che deve portare a Barra di Tijuca, che è il quartiere dove c'è il cuore dei giochi, perché lì c'è il villaggio olimpico e le grosse arene per gli sport di squadra, che non arriverebbe nemmeno direttamente lì, ma arriva a 5 km da lì, però perlomeno arriva all'inizio di questo quartiere passando le montagne dopo la zona sud della città carioca. Ecco, questa metropolitana, questa nuova linea metropolitana, che in realtà sono semplicemente un'estensione con 5 fermate in più rispetto alla precedente, sarà consegnata, pensa Giovanni, il 31 luglio. Quindi non dico in estremi, non dico in zona Cesarini, però peggio, insomma 4-5 giorni prima dei giochi. Alcune altre strutture, come un raddoppio della strada, dell'elevato di Joà, che porta appunto a questo quartiere di Barra di Tijuca, che è stato inaugurato 2 mesi fa e già presenta dei grossi difetti strutturali. Poi ricordiamo il caso della pista ciclabile, che era stata definita la pista ciclabile più bella del mondo. Sì, io immagino hanno fatto il giro del mondo. Sì, io sono stato in bicicletta, era veramente una vista mozzafiato. Bella era bella, però. Bella era bella, non hanno calcolato che il mare ha delle onde che possono essere molto molto alte, soprattutto in inverno, e che possono distruggere questa pista. Il risultato è che una grossa onda ha praticamente sollevato un tratto di questa pista ciclabile e 2 malcapitati si trovavano lì a fare footing un giovedì mattina, sono stati travolti e sono morti. Quindi insomma situazioni veramente da farsa, da tragedia, molto tristi per una città e per uno Stato, ricordiamo Giovanni, che è in bancarotta. Lo Stato di Rio di Janeiro. Sì, perché tra il 2009 e oggi c'è di mezzo una profonda crisi politica, c'è una profondissima crisi economica, c'è lo Stato di Rio di Janeiro che ha dovuto chiedere lo stato di calamità economica per provare a portare alla fine tutti questi progetti, il che fa anche sospettare, e non solo per il Brasile, sulla possibilità e sull'opportunità di organizzare queste grandissime manifestazioni. Questo stato di calamità economica, che è un eufemismo per non dire bancarotta, che tradotto in soldoni e tradotto per i nostri ascoltatori vuol dire che da 3 mesi i docenti delle scuole pubbliche non ricevono in tempo lo stipendio, i pensionati pubblici, i poliziotti non vengono pagati gli straordinari, e per questo i poliziotti sono andati settimana scorsa all'aeroporto ad accogliere i turisti con una striscione che diceva benvenuti all'inferno. ben poco incoraggiante e via dicendo. Insomma, questa situazione è dovuta, loro dicono, alla crisi economica brasiliana, è vero, alla caduta del prezzo internazionale del petrolio, è vero, perché nello Stato di Rio, nelle acque dello Stato di Rio, si concentra l'80% della produzione del petrolio brasiliano e il Brasile è un grande produttore di petrolio. Però è anche vero che dal 2007 ad oggi Rio ogni anno praticamente organizza un grande evento, spende un sacco di soldi, investimenti pubblici, perché ci sono stati, rapidamente lo dico, i giochi panamericani del 2007, poi i giochi mondiali militari, poi ci sono state le giornate mondiali della gioventù con Papa Francesco qui a Rio, la Coppa Confederation, i mondiali di calcio e adesso le Olimpiadi. Ogni volta si dice ovviamente che saranno una partnership pubblico e privato, che le sponsorizzazioni arriveranno da privati, ma poi alla fine paga pantalone, paga sempre pantalone anche in Brasile. Parlavi prima dei poliziotti. In certi casi le opere sono triplicate o decuplicate, cioè ovviamente si fa un progetto per cui si dice ci spendiamo 300 milioni di euro e si va a finire a spendere 2 miliardi di euro. Sì, è un modello che conosciamo abbastanza anche da queste parti. Esattamente. O almeno abbiamo conosciuto in passato e ci si augura di non rivedere più. In Europa rimbalzano questi dati. Si è anche scritto in Brasile, weekend dal 2 al 3 luglio a Rio, 27 morti ammazzati, 20 feriti, 19 sparatori e 7 arresti. A proposito di Benvenuti all'Inferno. Esattamente, da gennaio, ho scritto un lungo reportage per la stampa settimana scorsa, da gennaio ad aprile ci sono stati 1400 morti nello stato di Rio, ma non solo, negli ultimi 10 anni ci sono stati 10.000 morti ammazzati da parte della polizia, civili ammazzati da morte della polizia, questo dà la bellezza di 3 persone morte al giorno in conflitti a fuoco con la polizia, quasi tutti civili, buona parte di loro non c'entravano assolutamente niente col crimine organizzato. Quindi abbiamo una polizia sottopagata, ma una polizia anche che è messa fortemente in discussione per i suoi metodi. Guarda caso, poi il 90% dei morti sono giovani neri delle periferie. Insomma, quando noi ci scandalizziamo per i fatti degli Stati Uniti, in Brasile succede da anni. L'unica differenza è che non c'è la rivolta deprecabile, condannabile ovviamente, come quella che si sta vivendo adesso negli Stati Uniti. Anche qua a Rio c'è un grosso allarme terrorismo, perché in questo contesto di disorganizzazione, di cattive condizioni delle forze di sicurezza e anche di cattive forze di sicurezza in qualche modo, si sa e tutti quanti lo ammettono che Rio de Janeiro non è preparatissima per fronteggiare un eventuale attacco terrorista, e i servizi segreti francesi, fra l'altro, proprio due giorni fa, la Liberazione di Figaro, hanno rivelato che il capo dei servizi segreti francesi ha denunciato al governo francese che un sospetto appartenente all'ISIS aveva un progetto di compiere un attentato alla delegazione francese qui ai Giochi di Rio. Quindi c'è anche questo timore, questa preoccupazione, che non stiamo facendo dell'allarmismo, stiamo semplicemente rendendoci conto che in un momento di attacco, di strategia efferata, di attentati, di attacchi terroristici da parte di questi soggetti, le Olimpiadi sono un'occasione purtroppo per loro interessante, e non sappiamo se gli 85.000 uomini fra esercito, polizia, forze speciali e via dicendo saranno capaci di fronteggiare eventuali attacchi, per esempio, di lupi solitari o di cellule sparse qui a Rio de Janeiro. Sì, non stiamo facendo allarmismo, questa è soltanto cronaca a meno di 3 settimane delle Olimpiadi, sperando che poi almeno con l'avvicinarsi della cerimonia si riesca a recuperare un po' di quello spirito che tradizionalmente accompagna i giochi. Grazie Emiliano. Grazie a te Giovanni. Io solo rapidissimamente, solo per dire, saranno comunque delle Olimpiadi dal punto di vista scenografico fantastiche. Rio de Janeiro è una città che si presta a questo, e quindi vedremo tutti quanti una città fatta di montagne, di mare, di paesaggi favolosi in cui appunto acqua, terra, aria si mescolano, e quindi la bellezza degli occhi è assicurata da questa città dove vivo da un po' di tempo, e vi assicuro che è fantastica. Purtroppo è un paradiso inferno tutti i giorni e lo viviamo assolutamente quotidianamente. E noi lo scopriamo oggi che ci si avvicina alle Olimpiadi. Grazie Emiliano. Grazie. Grazie Emiliano Guanella. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata. Torniamo domani dopo il GR delle 14.